però quello lì era a radiotradursi, mentre invece quello a radiofrequenza, quello lì mi spostavo da una camera all'altra e non sentivo più, capito già? Sì, è così infatti, quelli a ultravioletti, ultrarossi hanno più capienza, dai. Avanti, Anto. Mi ricordo che ci avevamo avuto anche noi delle cuffie così forti. Prendeva radio infrarossi, mi sembra. Ce l'avevamo anche, forse erano delle iRadio, una marca del genere. No, le mie erano Philips. Ma sto parlando di molti anni fa, Anch'io. Però non lo so, lo dovrei avere conservate, ma non so manco dove le ho messe. Si metteva le batterie nell'amplificatore e poi le batterie nelle cuffie. No, c'era un alimentatore nella base. Sì, c'era un trasformatore, un alimentatore che caricava la batteria, primo, si attaccava alle cuffie della radio o del baracchino, si metteva le cuffie e tu scendevi giù anche a piano di sotto, oppure andavo in strada e sentivo benissimo. No, non c'era problema. Luca, io riavergi. Che ha detto Gianni, se dai che sta zionda che domani devi fare a fare lì. Sì, un poco male riesci a fare, riesci un poco dura. No, la macchina esce in orario, ha detto. No. Ne fa cura zio da Ghida Manera. Senza Francesca? Sì. Ragazzi, dai, ve devo lasciare perché la voce mi sta cominciando ad avere problema, difficoltà. Adesso mi prendo una mentina, così me devo riposare. Dai, avevo già interrotto prima che entrassi tu, ma poi l'ho ancora preso dall'entusiasmo di stare in frequenza, sono rientrato subito dopo, ma mi ero già allontanato, perché lo so che poi dopo un po' forse l'ha sentito la voce che mi si sta abbassando. Va bene, ciao Gianni, fatti sentire, grazie ancora per la chiacchierata, ciao Antonio, ciao Luca e ciao Natalino se sei ancora all'ascolto. Ascolto il Pirallino e dopodiché mi prendo una bella mentina per cercare di rischiarire l'uvola. Vai Gianni. Ciao Giulio, dai, buon corretti e buona serata. Avanti Luca. Ciao Giulio, ma oggi non c'è la pizza, oggi è giovedì, così è. No, il sabato, adesso abbiamo cambiato già da tempo, la pizza è il sabato adesso. Ah, vai tu. Ciao Giulio, ci sentiamo alla prossima. Ma Claudio Villa ti piace a te? Ah beh sì, mi piace Claudio Villa, Puglia. Ah. Tu ascolti quel tipo di musica? Beh sì, ascolta, considera la mia età, cosa devo ascoltare? A come si chiama lì, sono drogato, che è venuto anche in Sardegna. Era lì sono drogato. Io anche sono altro. Però a chi piace, va benissimo, non c'è problema, ci mancherebbe. Io sono per... di musica o vabbè, la musica è bella tutta, no? Non c'è problema, interessante che piaccia poi, la musica è bella tutta, dalla lirica alla musica leggera, la musica regionale, popolare, tutta è bella la musica, è interessante che uno sia appassionato. Vai già, quello è tipo per me, dai, dopo finalino, chiudo, ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo. Ho capito che sto drogato comunque. Oh, Iaga. Tutti drogati sono. Cavolo, ha fatto troppo ridere, gatto. Guarda, cassarà che sto drogato comunque. C'è ragazzo che si è mangiato con Fede. Ma per carità, non vuole visto quello. Adesso. Tanto comunque io quella cosa che ti ho mandato l'ho aperta nel tuo coso, capito? E ma a me me la apri, boh, che strano. A me no, c'è la protezione. Ah vabbè, me la farei vedere quando ci vediamo, dai. E dai. Cava cava. Va bene, va bene. A avanti, Luca. Fagliamo vedere. A me non mi ponete in mezzo, però, No, è un'altra storia, Poi Gianni, sta attento, che Gianni se la vanta molto, Sancio. No, dobbiamo vedere un'altra cosa, non quella. A me non mi piace la Zuglia. Ma quella Fainé è buona. No, la Fainé è una sartoria. Ma la Ziota ti piace? Se pongo una Ziota, mi dà drizzata. Ma mi sa che me ne faccio un po', me la metto in freezer. Almeno ce l'ho, non devo stare a tagliarla. Vai, Arturo, non è buono in freezer, è meglio fatta fresca, cosa sai? Ah, la cipolla, pensavo la fai lì. La Ziota, lo vago. Vabbè che la Fainé se mi avanza non ce la butto, ce la mangio, anche se è un po' più asciutta, ma la mangio lo stesso. Guarda, se assaggi la mia ti rimani una degli entri. Non ti credere, io non sono un grande mangiatore di Fainé, ma ne mangio un paio di fette e basta, poi mi riempie. Ma quella che faccio io te la mangi tutta perché è buonissima, croccante, buona. È tutta una sagosa in casa. K. Luca, tu l'hai assaggiata quella di Antù? Ma non solo, mi dite ogni volta, mi si da così e mi si da qua, ma ho fatto io non l'ho mai visto. Te la mando quando la rifaccio. Perché non le dà tempo a Antonio a fargli la foto, si la mangia subito. Ah, sì. Già te la mando appena che è pronta. Ma facendo la stai io? No, oggi no, la farò domenica. O sabato domenica la faccio. Ecco, tu dimmelo, quando la fai, passo e me la prendo. No, non è problema. No, non passo e la mangiamo insieme, passo e me la prendo. Di che gli devi dire, eh? Dice la genovese. Sto scherzando, naturalmente. No, io non sono di quelli, no. Dove vai? No, non è problema, ma se venire a mangiare, bevi, non c'è dei problemi. Quando pure di venire a mangiare, non c'è problemi. Ma tu, ma la teglia che cosa usi? Antiaderente, funziona benissimo. Una teglia normale, là. Non è di quelle stagnate, di quelle... Ma garantito, esci un matto e si esce. Ora perché le stagnano le teglie? Quelle lì sono fatte così, insomma. Che poi, lui non dovrebbe sciogliersi lo stagno, col caone. Non è stagno quello che usiamo per saldare. Allora che stagno? È stagno, è sempre. Sì, ma è diverso già. Se no, che maniera bene con lo stagno? No, è tutto un procedimento diverso. Io lo so. Però dice che si paga un bel per farle ristagnare quando ne esce lo stagno. Dice che le fanno, però si paga un bel. Pensa che una teglia non tanto grande costa 60-70 euro. Costano, E dove le vendono tu? Dal centro casa. Ah, ce li hanno, quelli proprio che usano, quelli che fanno la Fainé. Che ce li hanno? Ma lo sai che quel negozio di alimentari che hanno aperto, quel supermercato, che c'è a fianco... come si chiama? A Predanide, quello che hanno aperto, l'ultimo che hanno aperto prima della rotatoria per andare verso il centro carne, roba del genere, il giri, no. Prima della rotatoria lì c'è quel negozio, non mi ricordo come si chiama, ogni giorno, una cosa del genere. Quello li fa la Fainé. Tutti i giorni si chiama. Chiude alle 11 di notte. Fa la Fainé pure. Sì, lo so. Ma la farà in presenza oppure è di quella Fainé fredda che si li può mangiare? No, te la fanno su richiesta. Ma non beccavo anche quel negozio lì, sono entrato, per carità, non si può buffare, manco mi è mancato l'origano, che io lo metto sempre sulle pizzette, perché di origano non è buono, loro dicono abbiamo messo nel sugo, ma non si sente, io me lo aggiungo sempre. Sono andato a comprare l'origano, ragazzi, l'ho pagato 2,50 euro, cazzo, da dita gli costa 1,20 euro, mi basta. Io grosso già, è affiliato a CRAE. A CRAE? Beh, c'è alcuni prodotti CRAE, è di grande che ti pensi chi sia, di Murae insomma. Di Murae? E allora? Non lo sapevo. Ma ce ne trucchi, per carità. Il tipo che la cosa che è mano, non sai più, quando entri in vicino di questo ti perdi dalla roba che c'è. Ma quello che ha fatto e poi che fine fa? Ah, buh, è chiuso ancora. E lo affitteranno, buh, l'hanno sequestrato quello. E com'era questo di qua, che aveva abbigliato Carrefour? Ma quello dove c'era, come si chiama? Non è cola di quello lì. Era, aveva abbigliato Carrefour. Ah, ma c'era più la cola di quello. No, non era quella del su, no. Questa c'era qua, già, dietro casa mia. Ehi, ho capito, di fronte a casa di Gio Maria. No, di fronte da me, non su. Ah, ho capito. Perché è di fronte alla Budibuti. Ehi, ho capito, mi è chiarito. Quella è Carrefour adesso. Meno male che si è tolto dalle balle quell'essere strano. Ehi, ma tu, è una bucaria, non fai più nuda. Ma è un negozio abbandonato, spucci. È un po' così, Ma il Conad che c'è qua è bello invece. Quello è di lusso. Oh, i commessi sempre gli stessi sono. Ma ogni tanto i giamba li spostano. No, ma dico, quelli che c'erano prima nell'altro negozio, la coppia. Quindi li hanno assorbiti, meno male, almeno quello. Ma sono quattro iatti. Non li hanno presi tutti. Adesso ha aperto in via Torre, si è aperto pure, dove c'era il Confalonieri una volta. Ha chiuso via Diaz, ha aperto in via Torres. Ma chi? Ma Carrefour. No, perché anche questi lì li hanno preso, quelli che c'aveva via Diaz. Ma chiuso quello. Beh, anche chi sono di Corte Santa Maria, noi è un peccato, tutto sarrato. Cioè, guarda che adesso quello lì iniziano a occuparlo. Sì, che niente che preso il chibi, lui. Che schifo, ma poi io dico, e poi ne stavano costruendo quell'altro dietro il cimitero che era enorme, che su pure andato in fallimento, non si sa ma cosa, cioè ma cosa costruisci che cose milionari che hanno intanto da buio e tutto si arrende, principalmente dei minori si arrende. Quello dei Multinelli sta dicendo, quello lì dice che hanno sbagliato facendo il carico e scarico merci, dice che non l'hanno fatta a misura giusta, non ci passano gli autotriti. Già, però per ogni sbaglio, una cazzata, uno sbaglio comunque importante, non è che possono abbandonare come quella struttura che c'è multipiano che c'è lì a Predaneda. Cioè, cazzo, non è che queste strutture così le costruisci, le abbandoni, tipo Giumpina, Mattesi, tutte queste strutture qua, capannoni, le costruiscono e le tengono chiusi anni. Cioè, boh. Non so. Magari non sono bastati soldi o hanno cambiato idea, che ne so. Però ce ne sono parecchi adesso che Giumpina è una vita che quello lì non si potrebbe manco vendere lì, perché è una struttura che è pericolosa. Ma hai visto come la stavano facendo? Che dubbi, butti così, bonteggio fatto così. Ma che in Cina giù che così fatti? Ma con Casasoglia si è curato, immaginiamoci se si cura con il capannone. Lascia perdere, va. Ma quello lì non è finito. Praticamente io so che se non è rifinito tutto quanto non si può vendere, non è abitabile. L'abitabilità come cazzo dell'anno l'altro. Cosa ne so io? Sto dicendo non si è finito manco casa sua. Casa sua che è casa sua, lo sai dove abita? Sopra in alto in via Milano, di piazza, deve entrare una stradina. Cioè, la grotta già si la pusce in capo. È fissata adesso con la religione, ma è uscito di capo, non è normale uno così. Prima era di chi si, non dico delinquente, ma curia moto, era camicia abitato, dai. Ah, ma se non vede male, non prende male. E faceva anche nel televisore locale, mi pare che fosse TNG o qualche cosa del giro TG. E vabbè, comunque faceva una trasmissione dove parlava di Gesù Cristo, di queste cose qua, di roba religiosa. Ma come cosa? E a chi lo migliore, a chi lo migliore sani sono di capo. Aspetta, guarda. Io li conosco tutti quanti, li abbiamo serviti per tanti anni. Sono una famiglia di disperato, sui pure il capo. Io non li conosco i figli, conosco lui di vista così, ma no. Per, diciamo, l'ho visto qualche volta gareggiando. La scala di gioca quando ero un ragazzo, ci vedete proprio sul guardarino per guardare quando correva, c'era lui Tarzan di sorso col Kawasaki. Ma carità, sono una famiglia di scemi, sono, io li conosco bene. No, io non li conosco bene, li conosco sempre da voci di popolo, ho sentito dire che si stava per sposare, poi si è comprato la moto con i soldi dei mobili, la sua cosa, ho sentito così, poi se è vero o no, non lo so, sempre voci di popolo. C'era la moglie, la conosco pure lì, lei mi sembra una signora un po' più per bene, una signora un po' più tranquilla a confronto a Edo. E dei migliori sono tutti strani, forse qualche duno se ne salva, ma sono tutti gatti mancanti. Ma chi un bella? Già ne ha già figli. Io mi ricordo che c'aveva il caparone nei carteggini, che questa roba qua se ne sul cavalcavia all'inizio. Adesso c'era quel palazzo appariscente. E appariscente su due, su rudere. Ma è macco, a chi sanno di capo. Ui, vabbè, non sembra ruba. Io un'amica ha comprato i confetti per fare le bomboniere lì e mi ha detto che erano i dolci di Ravanna, non si ne può dire, ma ne ha fatto una figuraccia, ha fatto le bomboniere, se l'ha fatta lì per risparmiare, ha comprato tutto l'occorrente, ci ha comprato così, i confetti, dice che erano dolci di Ravanna, Breda e Zibari. A me fa schifo, a me fanno schifo i confetti, non mi... Ma stavo andando a Eurospin, faceva più bella figura, li vendo. Sì, ma all'Eurospin non trovi i tool per fare le bomboniere, tutte queste cose. Le hanno fatte tutte bene, capito? Le hanno fatte col fiocchetto, tutte carine. Ci ha messo anche il pupazzetto a fianco. Però erano i confetti che non andavano, erano dolci. Chissà che porcheria era. Ho visto da canto vira via. che ben diverso. A me, ripeto, fanno schifo, ma che piacciono. Già. Cioè, ci sono posti dove li prendono. E a tu, fanno schifo. Cazzo, sono quelli al cioccolato e sono ben buoni. Cazzo, di schifo. Date, bene, e già me li mangio io. Già infatti mia nipote quando ha battezzato il figlio le ha fatti di quelli al cioccolato, bellica, celesti al cioccolato, perché il figlio è maschio, le ha fatti celesti al cioccolato col pupazzetto a fianco, carino, la bomboniera, ma io sono goloso, l'ho aperta e me ne ho mangiato. Guarda, se ne avessi ti ridarei anche tutti, a chi non li voglio manco sapere. Ma il cioccolato addosso è buono, non so cattivi. Luca. Ah, io ci ho provato tante volte, a me non mi ci scendono. Oggi mi hanno spennato anche tu. È successo? Mi hanno spennato dal meccanico, 200 euro per acquistare la macchina. E ci voleva la bobina e più tutte le candele. 160 euro solo la bobina costa. Un bel di no. Mi gioco, no, male ce l'avevo, va. Ho ritirato, detto, non si sa mai, ma pensavo 100 euro in tutto, cazzo, pensavo, perché lui mi ha detto le candele durano una vita, ma quando va a gas dice che le consuma. sì, quei chilometri l'ho cambiato. No, lui ha detto che quelle candele fanno, sono particolari come candele, non sono le candele normali. E dice che fanno anche 100.000 chilometri se vai a benzina. Se vai a gas le consuma perché è secco come cosa, capito? Non le dà, non ingrassa. Vabbè, comunque fanno sempre di più, quelle a quattro punte sono. Non lo so, non le ho viste, me le ha fatte vedere ma non ho manco guardate perché ero talmente scioccato da un brivido. Ogni volta che tocca il meccanico con di nave. Buttateci tutto. Perché? Buttateci tutto, ciao Marco. Io, ciao a tutti e due, avete parlato assieme. Sì, certa macchina montano certe candele costosissime che usano uno o due modelli di macchina, rispetto a una volta sta cambiando tutto. Oh già, per non parlare dell'olio, certe macchine tipo Renault, no, per il mercato nostro, mettono di serie, loro vogliono che anche per la garanzia tu metta l'olio che dicono loro, tipo un 5V30. 5V30 è un olio da Nord Europa, quando c'è freddo gelo, ma non è un olio adatto all'ambiente mediterraneo. Infatti dicono di stare attenti con quell'olio perché in estate, quando c'è un bel caldo fuori, il motore scalda un bel, si potrebbero avere problemi. Andava bene da noi un 10,40, 10,50, ma a me sono sembrate come. Poi olio che te lo fanno cambiare ogni 8.000 km di cambiare l'olio, ma stiamo scherzando, a spennare il cliente, e tu già ne sai qualcosa, hai visto? L'olio Elf, dove loro usano, l'Elf. No, adesso non più, il Total lo usano, ma puoi metterli anche a Castrol, metti il 5,30 a Castrol stesso, non cambia un cazzo, quello che ha non è neanche molto vero, perché quei motori sono progettati per andare con quell'olio, se li metti il 10,40 potrebbe, se è un motore a catena ti potrebbe dar fastidio. Io se dall'ultima macchina che ho avuto prima di questa ho messo sempre Sint 2000 in tutte le macchine, a partire dalla 500 a arrivare sino all'Astra. Di Astra ne ho avuto due Station Vedo, il primo modello e l'ultimo, il penultimo. Ma per quella macchina ci vuole quell'olio lì, perché il motore è progettato per quel tipo di olio, non è vero che è cosa. I motori che tu ci metti quel tipo di olio lì non va bene, se tu rimetti un 5,30 non può andare bene chi un motore che mette 10,40, perché non va bene. Allora, i Sint 2000 solitamente si mettono in motori che vanno ad alte temperature, come l'Astra va ad alte temperature, c'è sempre 90 gradi, la commetti da buono in moto, ne sale. L'Astra va sempre così, il motore dell'Astra è così, e quindi va benissimo per l'Astra. Per quell'Astra lì andava bene, sì. Se tu li metti un 5,30 o 5,40 se lo beve. No, non li fai niente, perché non va bene per quel tipo di motore. E poi già, stavo leggendo tutte le limitazioni, se prendi una macchina nuova, cioè devi mettere l'olio che dicono loro, le cose che dicono loro, devi usare le candele che dicono loro, cioè se tu intervieni appena appena ti fanno decadere la garanzia e ti devi rivolgere o alla concessionaria, come dicono loro, che non è vero, puoi andare da un meccanico autorizzato purché usi ricambi ufficiali o equivalenti a quelli ufficiali, quindi anche dalla concorrenza, però approvati dello stesso tipo. E comunque non sei quasi non sei padrone della tua macchina, praticamente. Qualcuno decide, si rompe le palle e certe volte decide di abbandonare la garanzia, di farsi gli interventi in proprio, perché certe cose da fare sono delle fesserie, capito? E risparmi non un bel, di più ancora. Cioè, ogni volta che andavo alla concessionaria mi prendevano 450, ci è andato bene perché non abbiamo cambiato le candele, abbiamo fatto il tagliando, cambiato i filtri, il pulito, non so che cosa, 450 euro, non bisogna di tutto un rado, vado al meccanico, lui per farmi un cambio di olio mi piglia sulle 150 euro, nemmeno pure a volte, se non cambia le candele anche un po' di meno, e me lo mette buono Luglio, lo stesso, non è che sia audio schifoso, no, è un meccanico che incontra, vabbè. Stai scherzando, ti metto un olio buono, sì. Da che la stai portando? Da cosa la stai portando? Non mi viene. Da Franco Solinas, quello che c'è di fronte allo Smeraldo, è bravissimo. Questo Franco Solinas usa olio buono, usa Fuchs, Bardal, roba così. Non so, è un bravo meccanico, l'officina è piccola, ma lui è bravo, c'è sempre lavoro. Te ne accorgi da quello, devi prendere l'appuntamento, se no la macchina così non te la fa. Io ho preso l'appuntamento stamattina, sono andato, l'ho portata e me l'ha data stasera, capito? Però lavora bene, poi quando ti fa il lavoro non decade mai quello che fa, non è un lavoro che poi praticamente dopo due giorni ti fa di nuovo il difetto, no? Ti fa il lavoro e va bene. Da chi vai? Da quello che c'è di fronte allo Smeraldo, sai dove era il cinema Smeraldo? No già, non me ne ricordo, ma credo dalla zona cos'è, il monte? Sì, sì, monte, è la zona del monte, adesso non mi ricordo che via sia quella di via, non è via Nurra, via Lucio Cirvi forse. Ah cosa, via D'Annunzio, via Gabriele D'Annunzio, vabbè. E tu hai fatto i giri con la bomba, te lo ricordi per quello, perché c'è il tuo collega lì che lavora. No, lui ha chiuso Fois. E poi lui lo conosco benissimo. A Franco? E certo, porta la macchina a Daniele da lui. Io lo conosco da ragazzo, abitavo al Sacro Cuore dove abitavo io, figurati se non lo conosco. Avanti chi vuole entrare? Avanti chi vuole entrare? Ho visto un segnale fugace. Oh già, ma tu sei ancora in garanzia con la macchina o ti sei staccato? Io la macchina ce l'ho 5 anni, Marco. Non ce l'ho un giorno. Anche se è nuova la macchina mia, c'è 5 anni. Cioè, sono già passati 5 anni. Che cacchio. Ti ha pagato. Se non fossero passati non avrei finito di pagarla. Comunque ho sentito i tagliandi anche 650 euro e se te li fanno pure, perché alcune concessionarie, non dico qua, non lo so, però in continente, tipo olio non cambiato, cioè loro svitano e riavvitano per far vedere, se tu hai fatto un segnetto, loro tipo staccano, riattaccano un tubo, svitano, riavvitano per far vedere che l'hanno mosso e poi magari andare a scoprire, te ne accorgevi dai residui olio non cambiato, filtri aria non cambiati, filtri olio non cambiati, o i filtri del gas, insomma, roba da criminali. Sì, un amico mio è tornato indietro perché gli ha fatto il tagliando, c'è stato il cambio di olio, filtri, eccetera, eccetera. Ha controllato perché non si fida, l'olio era nero, non balla, è tornato indietro, dice no, ma il motore che ci aveva forse sporcizia, l'ha sporcato, no, questo qui non c'è viscosità, io lo sto toccando, l'olio non è viscoso, per cui se non me lo cambiate vi denuncio. Ah, quindi anche qua le fanno queste porcherie. Vabbè, oltre che uno se la paga la macchina, oltre che trabollo, tasse e tutto, devi pagare per possederla. Adesso stanno inventando una nuova cosa che devi assicurarla anche se nel garage, ma non ho capito se il garage è privato o un garage pubblico. Niente sapete. Che tipo c'è qualcuno che tenta di chiamare ma non sta uscendo di radio, avanti? No, non so, sotto di Gianni ha chiamato, ha premuto insomma. Io sono la vostra, se la rampo se la piglia in culo. Cosa dirà? La macchina. Vedi, te la peccato di buttare, te la vedi. E cosa ne vuoi? È tutta grimata questa macchina. E cosa c'è da fare? Di tutto, no, è da buttare, no, chiamo a Marcello, la prossima settimana faccio portare via, ho finito. Ma non l'ho più vista parcheggiata. In via Milano. Dove facevo i bombolari? Sì, me la sto tenendo lui, adesso la prossima settimana prendo e ci butto tutto. Le targhe mi devi versare. Sì, faccio tutta la documentazione e zirampo quanto per. Se me lo fa Marcello gli chiedo anche grazie. Sì, sì, te lo fa Marcello. Marcello te lo fa e poi devi pagare. Mia suocera l'ha fatto 70 euro, ma non è che l'ha fatta adesso, l'ha fatto 20 anni fa, adesso non lo so quanto sia. Io chiamo e parlo preciso, ti porto il libretto, ti porto tutto e tu questa macchina me la devi far sparire, mi devi lampare tutto quanto. Pago e non voglio più vederla in deposito. Cappa, cappa. Vabbè. E se no te la potevi vendere per pezzi, non lo so, qualche cosa l'avresti guadagnato. Ah, sono una massa di miserabili, lascia perdere. Sì, Gianni, qual era la domanda tua che hai fatto della... che non ho sentito? La domanda? No, ti ho detto che ho sentito su internet uno che diceva che se c'hai certe patologie non ti danno più un rinnovo della patente, quello va rinnovato te la prendo. Quello non lo so, io avevo sentito una bufala, poi Tonino mi ha confermato che era una bufala, che se avevi oltre i 69 anni non potevi più guidare, proprio guidare autoveicoli, veicoli in genere, ed era una bufala. Sono questi siti che ammettono false notizie per giabidure, così. Va bene, signori, io ho entrato a salutare, mi devo disfare la spesa ancora, dai, ci sentiamo un altro giorno. Ciao Antonio, Gianni, tutti gli ascoltoni, ciao. Ciao, ciao Marco, dai, ci ha fatto piacere che ti abbiamo sentito, ogni tanto fai cucù, fatti sentire. E non mangia troppo, cosa ti occupate? Un negozio? No, guarda, sono andato qua vicino a piedi, ho preso le medicine, ho preso il superenalotto, più che altro c'è carta igienica, molta carta igienica perché siamo dei cagoni della tutta. E poi qualcosa, aspetta, cos'altro c'era? Qualcosa da bere, poche cose, dai, due fesserie mancavano. E vabbè, dai, per oggi ho dato. Ok, ci sentiamo, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Io non ci sarei andato quello vicino a casa tua, che non su hai. Beh, i prezzi, sai cos'è, non sono prezzi da discount, io solitamente vado da MD, da Lido, da Eurospin, però devo muovere la macchina, la moto, io qua devo prendere medicine, a fianco c'era il market, ho preso proprio carta igienica di chissà, brevi, dimmi, due veli, tanto per averne due, quattro rotoli in croce, poi la buona la compro altrove, e di quella carta anche ti vai a pulire, si buca, ti sporchi il dito. Sì, te lo so per dire io. Vabbè, ci sentiamo Marco, dai, stammi bene. Avanti, a tu. Che schifo. Chi l'ha detto che schifo? A tu, fatti, sì. Luca. Oh, vabbè, dai. Sto chiudendo, no, se non rispondo a nessuno, me ne vale. Ciao. Chi è? Bobox. Chi è Bobox? Bobo, troppo alto sì, non ti capisco. Perché sono Ferrari. Ah, Tonino sì, cazzo, non ti avevo manco riconosciuto. E allora, come va? Sì, come va? Adesso che ti ammasso qua il braghetto, ecco. Così va bene, a modulazione. Io. Prima era troppo alto. Tutto ok? Sì, ho tolto poco fa tutte le lampadine che le avevo voglia, ho preso di tutti, le ho tolte poco fa, che ho messo quelle azzurre elettrico, bello, Natale, capito, la festività. Il giorno 7 ho tolto e le ho tolte le luci, e vabbè lo stesso, avrei tutto tolto, pulito, non si vede più niente. Ma io ho svoltato tutto quanto, domenica mattina mi sono alzato prima, le ho tolto tutto, tappeto, la corona che ho messo di l'alberello, tutto quanto, tutto smontato e messo a posto. Adesso il prossimo anno. Ecco, io sono a Piotta, però ho una bella macchina Ford Focus, delle ultime uscite, bella. Come se avessi una Piotta, ma c'è una macchina Ford Focus. Me l'ha data, me l'ha prestato un amico. Ah, e anch'io Tony, sto uscendo dal meccanico stasera, mi è partita la bobina delle candele, Una delle bobine, perché adesso le candele ne hanno una per ogni candela. In più mi ha cambiato tutte le candele, lui è tuo. Ma io da poco l'ho cambiata, la bobina con i 5 fili, uno per le 4 per le candele e uno perché andava attaccato non so dove, comunque, 35 euro pagavo. Piazzato tutto a posto, niente, adesso invece si è rotto del tutto, ho ordinato già in due giunti multicinetici con Semiassi, ho già qua la scatola guida e due tesine. Quindi aspettare che mi arrivano i due giunti concensi con Semiassi da fuori che ho ordinato via internet, dovrei arrivare domani, così la porto meccanico mi fa tutto. Niente, purtroppo i fossi sono fossi, non c'è nulla da fare. Bianco per me. E anche tu. Ehi Tony, ma è diversa concezione di motore, capito? Questa qui c'ha, quella lì sarà una bobina unica per tutte le candele. La mia c'ha una bobina per ogni candela. Immaginati, tutto quanto fatto in pratica, non pare manco bobina, me l'ha fatta vedere, non sembra manco, io per bobina intendevo quella che conoscevo io, quella in lamiera, la faccia in plastica. La bobina è attaccata, è unica, sì, c'era un cavo che va attaccato forse alla bobina, e i quattro cavi sono delle candele. Insomma, comunque, riferrappa tutti i pezzi più la manodopera, 500 euro. Indora, buona. Vabbè, tu lì. Se per tenertela, l'interessante è che lo tratti più bene, perché se per venderla non ce la primisci qui su, se per tenertela fai bene, per spenderne di più e te prendete un'altra macchina, ti tieni in quella lì e te la metti a posto. Sì, infatti sto aspettando, se aggiungo questa qua momentaneamente la tengo, se mi fa un anno, un'ora e mezzo, oppure la compro nuova direttamente. Adesso c'erano gli incentivi, se la versavi quella lì c'erano gli incentivi. Ma hai fatto probabilmente la prima non cammina, c'hai giunti proprio mangiati. Sono arrivato giusto in campagna, me lo fermo tutto. La domenica ce l'ho ferma, capito? Mi sei incasinata. Vabbè, non c'è problema, dai. Niente, mi sto arrangiando così e quindi faccio questa foto focus, domani faccio le commissioni che mi devo fare, poi devo fare una visita a Pro Torres lunedì, però piano piano si fa tutto già. Grazie che hai trovato chi ti ha prestato la macchina, sennò è un casino quando sei a piedi, ma siccome non ce l'hai la macchina non te ne accorgi, quando sei a piedi ti accorgi dell'importanza che c'ha la macchina. No, ma lui non può più guidare perché c'è anziano, capito, poi non gli darò con la patente, quindi chiama sempre a me, io scendevo con la macchina mia, prendevo la sua, le facevo le commissioni, cioè mi pagava anche la benzina, giustamente. Ha detto, io sono a piedi, comunque dice prendi la macchina mia, se ti serve, domani la senti, verso le 9:04, mi dai un passaggio che mi accompagni, devo andare in banca, ma non c'è problema. Ok, sì, lo sapevo che me la pensava perché tutti i favori che le ho fatto, ma non c'è problema già, grazie a Dio. Sì, l'ho chiesto oggi perché io non mi serviva a mattina neanche, io sono da due di caffè, ho detto ma adesso mi serve stasera anche domani. E quindi, vabbè, non c'è problema, dai, tanto ripeto, avevo tutto in casa, quindi non mi mancava niente, qualche cazzata è pazza. Sono fortunato nel senso già perché ho un po' di soldi a parte, già se no non ho problemi per aggiustare la macchina, capito? Il brutto era se non avevo niente, ma grazie a Dio per questo non c'è problema. Meglio così tu, come ti stavo dicendo, adesso ce la fa arrivare dal meccanico oppure non cammina proprio? No, non cammina proprio, ma non c'è problema, io schiaccio il pulsantino in macchina e mi viene il calatrici gratuito con... Ce l'hai anche tu, se abbiamo la stessa assicurazione o già? Sì, è vero, c'è il calatrici gratis, sì, perché pago 20 euro all'anno per il calatrici. No, io ho fatto tutto un conto, ma non sto parlando molto perché ho confrontato altre assicurazioni già. Per carità, io qua pago 170 ogni 6 mesi. Ho chiesto un'altra assicurazione da Unipol, mi ha chiesto 350 6 mesi, ma voi siete pazzi, sono i prima. Lascia per il minimo dove sono. Vabbè, se te l'ho consigliato perché in giro l'avevo fatto prima io, e avevo guardato, confrontato, e non ve n'era una che ti, solo quelle di internet e qualcosa di meno ti faceva, la mattina non nessun affidamento, perché se tu devi andare a chiedere una cosa non rispondono al telefono. Un amico mio l'ha tamponata a uno e gli ha fatto l'assicurazione, cioè aveva questa assicurazione di internet, non rispondevano mai, alla fine questo gli ha messo la boccata e gli ha fatto passare casini. Questi di internet non rispondono mai, capito? È un casino, ti mettono la voce guida e poi non rispondono. No, io non mi fido con internet, niente, io vado dove parlo, pago, ricevuta, tattata la mano, e se c'è qualcosa vado in ufficio e so dove andare. Non mi sono mai fidato già, io ho avuto una propria, grazie a Dio. Occhio, il telefono, uno squillo, in capita cos'è, lo spam. E quindi niente, adesso mi scade, dunque, a ottobre, sì, perché ottobre l'ho fatta, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile mi scade, aprile automaticamente la rinnovo, fino a ottobre quest'anno. Andò bene, comunque, non è molto l'importo perché con fronte agli altri c'era spaventarsi già. Lasciamo perdere, che dici lui pure era bravo, ma non sei bravo, ma che sei? No, no, io te l'ho detto, ho fatto il giro prima, avevo controllato un bel po'. Poi sono andato anche dove ti mettono l'assicurazione che si spende di meno, tutto quanto, no? Su internet solo ci sono, ho qualche una che spendi una ventina di euro in meno, ma tu non c'hai affidabilità, cosa te ne fai delle 20 euro in meno quando qui non sono affidabili, non puoi parlare, non c'hai, se devi parlare per qualche incidente, qualche cosa di rompuglia, ma può succedere, non puoi farmi da aiuta che non ti rispondi, e quindi io ho lasciato perdere. Questa microfonazione non lo fare perché lo stavo per fare per la moto e per le due macchine. Comunque io con questa assicurazione tra moto e le due macchine avevo risparmiato 500 euro. E beh, è buono, cavolo, vada bene. No, io il pezzo l'ho fatto arrivare secondo la guida da Cagliari. Sono andato alla Roma e sono scappato, perché è un bel caro, un bel. Non parliamo del giunto mucinitico completo di semiasse, perché io volevo soltanto il giunto mucinitico e capelli mi faceva arrivare che poi non ero a disposizione, non ce li aveva, 60 euro solo un giunto, mentre qua automaticamente mi ha dato il numero del codice originale, ok, fatelo sviati, perché il destro costa un po' di più, il sinistro di meno, cioè viceversa, il sinistro costa di più e il destro di meno. Comunque, con meno di 100 euro io adesso prendo tutte e due, compreso i semiassi. La scatola guida l'ho fatta arrivare da Cagliari e l'ho pagato una cifra, era Tessina. Più c'era una domanda che devo smontare tutta la mandarina già, non è roba da poco. Vabbè, qui se la verniciata te la fai nuova. Cosa? La verniciata te la fai nuova. No, ma ho visto qualche imbecille che ha fatto un piccolo trappo col coltello alla ruota, ecco perché se si piano piano, l'ho notato lui, c'è in cavolo, ho il compressore che l'ho preso da Vrico, un bello, l'ho attaccato, gonfiata, se ne siede dopo 4-5 giorni, capito? Io l'ho così cambio anche le gomme, buonanotte. Non la tengo, però se mi tiene un anno e mezzo a posto me la compro nuova direttamente, l'ha perso Ciccio. Ascolta, ma quelle gomme che hai preso da internet come sono? No, no, le ero mandate indietro, non le ho volute, me le ho rimborsate soldi, meno 15 euro. Perché, Tony? Perché erano vetralizzate, praticamente quelle gomme non servivano, avevano oltre 10 anni, e a me a Futtimi, perché sono stato commissario, ho detto non te le piazzo neanche, anche tutto ammazzi con le gomme. Ho tre foto davanti alla signora, ero commissa e mi ha detto, sì, ma dove l'ha portata? Ho detto, sono la commissa, me lo passi. E poi si sono messo ubriati, che l'ha detto, ma lì perché il commissa fa, se parla così lei non è commissa, cazzo, la giumana va a dire a fare culo guido. Ha detto, ascolti, queste gomme se le può anche mangiare. Comunque gli avevo spedite indietro, ha detto, se non metto l'avvocato, ma ha detto, non si preoccupa, li mandiamo anche i soldi, ci tritiamo 15 euro, vabbè, non mi frega niente. Dopo una settimana mi hanno mandato anche i soldi sul mio conto, vabbè, non c'è problema. Niente, poi sono andato vicino a Uscià, ma Uscià no, vicino a B, come si chiama, quattro ore adesso, comunque, e me l'ho preso le gomme, due davanti. Come è onesto come primo? Ma sì, abbastanza, dai, non è proprio Bricome, si chiama, vabbè, è prima di Bricome, capito? Io ho preso quel gommista che c'è lì, che poi più avanti c'è Spinidate. La Genovese gomme? Eh? La Genovese gomme, stai dicendo? Non so se si chiama Genovese gomme, già, è prima di Spinidate. E non lo so dove è Spinidate, comunque quel brico dei cinesi, stai dicendo? No, Bricome, quello grande enorme, ci davano anche due minipoti dentro, adesso si chiama Fancina, non mi viene il nome, ha capito pure. Ho capito, all'interno rimane questo gommino. Sì, sì, sì, nella via dell'interno. C'è lui, poi c'è Spinidate, poi più avanti ancora c'è quello Idea, che vede la roba tipo Bricome, che è cinese, insomma. E appena entra a sinistra, capito? Non c'è problema, già. Ma scusa, e a Roma non è buono come gommista. Io prima mi servivo lì a San Giovanni, poi da un po' di tempo fa. A Roma? Io. No, lascia aperto. Come gommista è buono la Sassarese Coppa che c'è inizio via Milano. Quella è l'unica che io ho trovato fino adesso buono. A Roma? E i prezzi sono anche buoni, io non sono attori, vabbè. Oh. È l'unico che fa prezzi buoni e fa un bel lavoro, la verità. Io mi cammino anche con la Ford Focus sempre lì. Ma le gomme che ho io costano un po' i soldi, le mie sono quelle col bordo per non toccare i cerchi. C'hanno i bordi a fianco, capito? Sono più care delle altre. Vabbè, io là avevo pagato 380 euro quattro gomme, capito? Nove. Vabbè. Purtroppo, e mai sono le parapelle perché sa macchina, perché la lascia andare fin quando poi non ve la fanno più. Apre il motore, il petrolio, me lo scattante già, poi non posso dire niente, sempre controllato tutto. Soltanto che si sapeva che aveva questi rumori strani, giunto bucceritico. Poi tra l'altro quando sono andato con Bisa mi ha detto cambiate le tessine perché guarda, ha proprio la gomma si muoveva, dice è un casino qua. Sono andato dal meccanico, mi ha detto a parte le tessine prendi anche la scatola guida, spediti. E quindi da lì ho preso tutto quanto, mi mancava solo i giunto bucceritici, la tenuta che la porta al meccanico, li faccio mettere le tessine, scatola guida e poi sono punto di partenza, li portate a prendere i giunti bucceritici. Tanto vale, mi ordino pure quando c'è tutto dalla porta, vabbè fai così. E quindi adesso sto aspettando che arriva domani o dopo. Ho capito. E vabbè, potevi dargliela, così almeno poi te la tenevo meno giorni, l'avrebbe fatto piano piano. Comunque. E vabbè, si sapeva che erano vetrificate quelle rotoli, io ho parlato con diverse persone, tu mi hai detto, no, sono buone, se le vedi sono nuove nuove. Però io ho parlato con questo lì che mi ha detto, arrivano vetrificate, sono di quelle che praticamente sono anche seminuove, però ce le hanno 20 anni e quindi non servono più. Si vetrificano e si scoppiano, se secondo che come cammini si scoppiano, e cazzo non puoi andare a rischiare la vita per non pagare una gomma. E aveva oltre 10 anni, poi guarda, mi ha fatto lottare come sa che io non l'ho mai guardato, guarda, se guardi bene bene la gomma, proprio alla luce del sole, ti metti vicino vicino, intorno alla gomma c'è scritto anche la data di fabbricazione, capito? E mi ha fatto vedere, quindi lascia perdere la pazzini. Ragazzi ammirali, stagionate. E quando gliela detta quella lì, cazzo, si è cazzata, io sotto gli ho detto, a me mi va bene così, io metto tutto indietro, faccio il pacchetto e ciccia. Cazzo, questa già si è cazzata. A me lui ciccio me lo dice, ascolti, noi usiamo così dire ciccia e dire, vabbè, pazienza. Ma no, non è che si mette un'offesa, mica so che lei cicciona. Cazzo, come si fa il mazziota. Vabbè, comunque. Già sono offici, se non è napoletano. No, Milano, San Giuliano Milanese. E comunque sono gomme che praticamente a loro le danno perché sono vetrificate, ce l'hanno 20 anni, loro le vendono a poco prezzo per farsene fuori, però ammazzano la gente con quelle gomme. perché essendo vetrificate si scoppiano. È presente come si fanno le maniglie delle macchine dopo un po' di tempo che si vetrificano, così si va a tenere i gomiti. Vabbè. Io quando ho fatto la commissa subito, allora ho fatto le foto e gliel'ho mandata, e ho detto, ma sto scherzando. Tu pensa che la gomma è centrata, come nulla fosse nel cerchiola, che di solito fanno un po' con la chiave e cerca di entrare nei calci copertoni. Nulla è centrata, come nulla fosse, andava pure in aria e esce da fuori. Ah, tu guarda, no, sì, infatti quando lo prendo senti tra la gomma. È magnificata, quindi no, se la piglia luce, comunque non mi interessa. Ora ci ho messo lo stesso le gomme e ciccia, adesso vediamo. Adesso ho iniziato il giornale già, adesso me lo guardo, dai. Sono già arrivato per 5 quasi. Lei ero sempre incasinato, impegnato qua, va là, va, ma neanche io sarei neanche più entrato, cosa devi fare? Per entrare in 2 minuti, arrivare tardi, poi cucinarti qualcosa, fai tardi, non ne vale più la candela, capito? Ho detto quando c'ho più il tempo, se c'è gente dentro, se no, ciccia. Va bene già, dai, già ci sentiamo, stammi bene, buon proseguo, buon carico quando lo fai. Ciao, ciao Tony, buona carica anche a te, ci sentiamo. Andare. Ciao. Ok, grazie. Ciao, ciao.